destino, chiamarla fatalità. Ma qua è tutto uguale come 8 anni fa. Chiudo gli occhi e penso ai vostri cari in una stanza. Son sicuro, sento tutti i giorni la vostra mancanza. Non è facile ricominciare, non è facile parlare, quanto restare a pensare a tutto ciò che può mancare. Dire che va tutto bene, quel bene che fa male. Quel ritratto giù a Vinova, il suo messaggio indelebile dal cuore come al corpo un tatuaggio. Un sogno nel cassetto, vincere il pallone d'oro. Era un sognatore, ma ora siamo noi a sognare l'oro. E a volte guardo in alto per cercare di raggiungere e capire se ci siete voi al di sopra delle nuvole. Penso che parlarne sia una fatica. Mando un bacio a voi lassù e che Dio vi benedica. Se giù negli occhi scende una lacrima, vorrei volare lontano, andare via da qua. E mi chiedo spesso se c'è un campo per giocare sulle nuvole. La vita è una e non ci sono seconde chance. Vorrei tornaste per giocare un'altra mano. E mi chiedo spesso se c'è un campo per giocare sulle nuvole. Gioco la partita più importante della vita. Rincorrere i miei sogni dandomi un'alternativa. Vedo il mondo dalle nuvole cambiando prospettiva. Percorrerò la strada anche quando sarà in salita. Vi sentirò vicino, io sarò sempre sincero. 2 stelle in più che brillano illuminandoci il cielo. Vi ama da campioni, lo diranno al mondo intero. Sogneremo anche per chi vive come fa un guerriero. Una lacrima che sfiora il viso posandosi al suolo. Per chi vuole trasformare i propri sogni in un lavoro. Col valore di una maglia ed indossarla anche in battaglia. Non è un fuoco di paglia, è un coro dedicato a loro. Il vuoto dentro non mi ruberà il momento. Io ci metterò la forza e voi che fai ringraziamento. E col rigore calcio il mio rigore a stento. La mia rabbia tutta dentro, il rumore che fa il silenzio e dice: se chiudo gli occhi scende una lacrima. Vorrei volare lontano, andare via da qua. E mi chiedo spesso se c'è un campo per giocare sulle nuvole. La vita è una e non ci sono seconde chance. Vorrei tornaste per giocare sulle nuvole. Chiudo gli occhi, scende una lacrima. Vorrei volare lontano, andare via da qua. E mi chiedo spesso se c'è un campo per giocare sulle nuvole.